personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Noi nel nostro programma raccontiamo sempre vite di personaggi, diciamo, di un certo rilievo, che sono riusciti a eccellere magari in un'arte, letterati, pittori, oppure attori, musicisti, cantanti, calciatori, sportivi, inventori, oppure anche persone sconosciute che però hanno fatto qualcosa di particolare, hanno avuto dei colpi d'ala, come diciamo noi, magari hanno fatto da apripista. Anche quando abbiamo trattato argomenti difficili, anche in negativo, i nostri protagonisti sono sempre stati dei personaggi che operavano delle scelte anche terribili, però persone che agivano verso il bene o in alcuni casi verso il male, agivano con grande efficacia. Bene, oggi non è così e inauguriamo un nuovo tipo di personaggio. Sì, perché il nostro protagonista di oggi è un uomo che incarna l'inedia, l'inettitudine, l'inadeguatezza in qualsiasi situazione della vita, in rapporti amorosi, familiari, ambito lavorativo, ambito sociale. È un uomo che potremmo definire inadatto alla vita, è incapace di conformarsi ai valori che accomunano il resto dell'umanità, uno che si autoesclude, che si rifugia nel suo mondo fittizio, in una sorta di invenzione mentale tutta sua. E sì, perché questo suo essere sempre in bilico tra il fare e non fare, a questo modo di pensare, di agire, lui contrappone in realtà una intensissima attività interiore che lo porta a formulare elucubrazioni mentali complicate. Insomma, oggi parliamo di Zeno Cosini. È un ricco commerciante triestino di fine 800, vive dei proventi dell'azienda paterna, non ha problemi e quindi se li crea da solo. La sua attività principale è quella, per esempio, di inventarsi malattie inesistenti. Ho sempre avuto una grande fiducia nei medici che mi hanno curato e ho creduto loro sinceramente quando hanno attribuito i miei dolori ora al ricambio, ora alla circolazione difettosa, poi alla tubercolosi, a varie infezioni di cui qualcuna anche vergognosa. Tutte le diagnosi vivono esattissime nel mio corpo e si battono per il primato. Vi sono delle giornate in cui vivo per la diatesi urica e altre in cui la diatesi è uccisa, cioè guarita da una infiammazione delle vene. Ho dei cassetti interi di medicinali e sono gli unici cassetti miei che tengo in ordine io stesso. Amo le mie medicine e so che quando ne abbandono una prima o poi vi tornerò. Chissà da quanto tempo e di quale malattia sarei già morto se non le avessi simulate tutte e le avessi curate prima che esse mi afferrassero. Sì, è una bella teoria, curarsi preventivamente dalle malattie per non prenderle. È una teoria che occupa gran parte della vita di Zeno Cosini insieme a un altro suo grande problema, il fumo, che è un vizio dal quale lui cerca sempre di liberarsi ma non ci riesce mai. La sua vita è costellata da un numero infinito di US, come le chiama lui, cioè ultime sigarette, e naturalmente non sono mai le ultime. Non mi ricordo chi disse: smettere di fumare è facilissimo, io ci sono riuscito migliaia di volte. E questo male di vivere, questa inettitudine, portano il nostro protagonista Zeno, alla soglia dei 60 anni, a provare l'ultima spiaggia, quella della psicanalisi. Si affida al dottor S, che è un grande psicanalista, che lo esorta a fissare su carta i suoi ricordi. Scriva, vedrà come arriverà a vedersi tutto intero, gli dice il dottore. Così Zeno Cosini comincia a redigere una specie di memoriale, l'ho fatto anch'io recentemente, scrivere di se stessi. È un memoriale che non ha un ordine cronologico nel suo caso, è diviso per argomenti, in una serie di episodi legati ai suoi vizi e soprattutto ai suoi fallimenti. L'autobiografia di Zeno Cosini, che ci consente di conoscerlo a fondo, che rappresenta una serie di sconfitte legate tutte alla sua inettitudine, alla sua inedia. La prima che lui racconta, la prima sconfitta, è il suo desiderio di guarire dal vizio del fumo, però i suoi sforzi sono vani, lui continua a fumare un numero impressionante di sigarette senza peraltro trarne alcun problema, perché la verità è che lui, al di là delle sue malattie immaginarie, è sano come un pesce, ma naturalmente questo non lo sa, non lo vuole sapere, e cerca di disintossicarsi dal fumo in tutti i modi. A un certo punto della sua vita arriva addirittura a farsi ricoverare in una casa di cura, dalla quale poi evade corrompendo un'infermiera. Zeno Cosini inizia a fumare da piccolissimo e per molti anni fuma come un turco, ogni volta che può, più che può, fino a star male. La prima crisi col fumo ce l'ha quando ha 20 anni. Soffersi per qualche settimana di un violento mal di gola, accompagnato da febbre. Il dottore mi prescrisse il letto e l'assoluta astensione dal fumo. Mi colse un'inquietudine enorme. Giacché mi fa male, pensai, non fumerò mai più, ma voglio farlo per l'ultima volta. Accesi una sigaretta e mi sentii subito liberato dall'inquietudine, nonostante ad ogni tirata sentissi alle tonsille un bruciore come se fossero state toccate da un tizzone ardente. Finii tutta la sigaretta con l'accuratezza di chi compie un voto e, sempre soffrendo orribilmente, ne fumai molte altre durante la malattia. E questo fatto mi procurò il secondo dei miei disturbi, lo sforzo di liberarmi dal primo. Le mie giornate finirono con l'essere piene di sigarette e di propositi di non fumare più. Insomma, per Zeno Cosini il fumo diventa un doppio vizio. Oltre all'ossessione per le sigarette, c'è l'ossessione nei confronti dell'ultima sigaretta, che ultima non è mai. In lui scatta così una specie di cerimoniale: ogni data importante, un compleanno, un Natale, o il suo passare dagli studi di legge a quelli di chimica, o tornare a quelli di legge dopo quelli di chimica. Insomma, ogni giornata è l'occasione buona per fumare l'ultima sigaretta, l'ultima della sua vita. Una sigaretta che ha un gusto più intenso, un sapore speciale, ha il sapore della vittoria su se stesso, e poi però quella successiva che arriva ha il gusto, invece, il gusto amaro della sconfitta. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Zeno Cosini sta redigendo il suo memoriale con dovizia di particolari e con una grande dose di umorismo involontario. Archivi al vizio del fumo, che peraltro invece lo accompagnerà per tutta la vita, e passa a un argomento che per lui è una causa di grandi sconvolgimenti interiori. L'argomento è il suo rapporto col padre. E già, perché la relazione tra Zeno e suo padre è una relazione ostacolata da incomprensioni, da lunghi silenzi. Il padre non ha nessuna stima del figlio, addirittura per sfiducia affida la sua florida azienda di famiglia a un amministratore esterno che si chiama Olivi, che viene imposto a Zeno. Insomma, c'è un accordo rigido che passa nel corso degli anni addirittura al figlio di Olivi. Insomma, per tutta la sua esistenza Zeno non avrà mai problemi economici, ci saranno altre persone che penseranno a lui, potrà vivere agiatamente senza dover lavorare, e questa condizione apparentemente privilegiata in realtà gli porta un'ulteriore inedia. Insomma, in cuor suo lui odia Olivi, anche se è un bravissimo amministratore, lo odia perché gli impedisce di fare il lavoro che fa lui. Però tornando al rapporto col padre, si capisce subito che Zeno e suo padre sono totalmente diversi, sono agli opposti. Era considerato da tutti un ottimo commerciante e viveva in perfetta sintonia con il suo modo di essere. Ritengo che egli abbia mai compiuto degli sforzi per migliorarsi. Fumava il giorno intero, beveva discretamente ma da gentleman, solo a cena, tanto da essere sicuro di trovare il sonno pronto non appena posata la testa sul cuscino. Sapeva difendere la sua quiete sia in casa che nell'animo suo. Non amava il movimento, perché l'esperienza gli insegnava che quanto si muove finisce prima o poi con l'arrestarsi. Anche la terra era per lui immobile e solidamente piantata su dei cardini. Soffriva se gli si diceva qualche cosa che non si conformasse a questa sua convinzione. Mi interruppe con disgusto una volta in cui gli parlai degli antipodi. Il pensiero di quella gente con la testa all'ingiù gli sconvolgeva lo stomaco. Intellettualmente non c'è niente in comune tra Zeno e suo padre, però lui il padre lo ama teneramente, direi in segreto, lo vede poco perché è sempre impegnato coi suoi affari, e come spesso accade Zeno si accorge di quanto ama suo padre quando il padre ormai vecchio si ammala. Fino a quel momento era stato solo una specie di cassa continua alla quale attingere per avere dei soldi, soprattutto negli anni dell'università. Poi a un certo punto lui vede il padre sofferente. Zeno ha 30 anni, comincia inevitabilmente a tracciare un bilancio del suo rapporto col padre, e il bilancio è amaro. Ci volle la malattia per legarmi a lui. La malattia che fu subito la morte, perché brevissima e perché il medico lo diede subito per spacciato. Mai fummo tanto insieme quanto nel mio pianto. Il pianto offusca le proprie colpe e permette di accusare senza obiezioni il destino. Piangevo perché perdevo il padre per cui ero vissuto. Non importava che gli avessi tenuta poca compagnia, i miei sforzi inutili per tentare di diventare migliore erano stati fatti per lui. Il successo cui anelavo doveva essere il mio vanto verso di lui, che di me aveva sempre dubitato, ma anche la sua consolazione. E ora, invece, egli non poteva più aspettarmi e se ne andava convinto della mia inettitudine. E così Zeno rimane completamente solo con la morte del padre. La madre era morta quando lui aveva 15 anni e anche l'unico fratello che aveva era mancato molto giovane. Quindi Zeno è un trentenne molto ricco, con una serie di antefatti irrisolti, ricco ma inconcludente, che non ha terminato gli studi, né quelli di legge né quelli di chimica, non lavora, trascina la sua vita da un sintomo all'altro consumato pacchetti di sigarette. Poi interviene un evento che è destinato a cambiare completamente la sua esistenza. L'Olivi, il suo amministratore, forse per trovargli qualche occupazione, lo spedisce al Tergesteo, che è il palazzo sede della Borsa di Trieste. Lo convince che potrebbe essere un buon esordio per la sua futura attività commerciale, che in quel luogo lui magari potrebbe iniziare a impratichirsi con le terminologie, con le prassi del commercio. E poi andare lì è un modo come un altro per dare un senso alle sue giornate vuote, prive di impegni. E lì Zeno Cosini conosce Giovanni Malfenti, che è un negoziante, un grande negoziante, forte, sereno, attivo. Il Malfenti aveva allora circa 50 anni, una salute ferrea, un corpo enorme, alto e grosso, del peso di un quintale e più. Le poche idee che gli si muovevano nella grossa testa erano svolte da lui con tanta chiarezza, sviscerate con tanta assiduità, applicate evolvendole ai tanti nuovi affari di ogni giorno, da divenire sue parti, sue membra, suo carattere. Di tali idee io ero ben povero e m'attaccai a lui. M'assisi al suo stesso tavolo dal quale lui troneggiava e di là non mi mossi più, sembrandomi di essere arrivato ad una vera cattedra commerciale. Egli s'accorse della mia ammirazione e mi corrispose subito con una amicizia paterna. E così Giovanni Malfenti si affeziona subito a Zeno, lo giudica un giovane per bene, sicuramente ingenuo, ignorante in campo economico, però uno come si deve, e il fatto di essere così a digiuno della vita in realtà per il Malfenti diventa un pregio, non un difetto. Lui ha voglia di trasmettere qualcosa agli altri, a un'altra persona, lo istruisce, gli insegna le sue conoscenze. Zeno non si gioverà mai di tutto questo, i suoi affari continueranno a essere amministrati dal cauto Olivi, però i rapporti tra i due diventano familiari, anche perché poi Malfenti si confida con Zeno. E in realtà capiamo un altro aspetto, cioè Malfenti sì, è affezionato a Zeno anche perché in qualche modo può rappresentare il figlio maschio che lui non ha mai avuto, perché lui ha quattro figlie tutte femmine e a detta del padre tutte molto belle. Così e Zeno comincia a ascoltare l'amico con un interesse diverso, perché è già da un po' di tempo che gli è venuto in mente di sposarsi, di mettere su famiglia. Lui è solo, non ha nessuno, ha possibilità economiche e potrebbe concedersi i piaceri del matrimonio e magari anche della progenie, insomma, di far dei figli. Appresi che le quattro figliole di Giovanni avevano tutte i nomi dall'iniziale A, un fatto praticissimo secondo lui, perché le cose su cui era impressa quell'iniziale potevano passare dall'una all'altra senza dover subire dei mutamenti. Si chiamavano Ada, Alberta, Augusta e Anna. Quell'iniziale mi colpì molto più di quanto meritasse. Io mi chiamo Zeno e mi figurai che stessi per prender moglie. E lo dicevamo, Zeno ha questa vita interiore intensissima, che contrappone invece all'inedia esteriore, lui crea nella sua mente connessioni che spesso vede solo lui, connessioni arbitrarie, insomma si convince che chiamandosi lui con un nome che inizia per Z, ultima lettera dell'alfabeto, il destino gli riservi una moglie il cui nome inizia per A, prima lettera dell'alfabeto. La sua mente iperattiva gli ha suggerito, insomma, questa che è solo un'illazione. Poi probabilmente lui ha proprio il desiderio di imparentarsi con Giovanni Malfenti, che è il suo amico nuovo, il suo unico amico, ha un affetto fraterno, filiale per Malfenti. E così quando Zeno varca per la prima volta la casa Malfenti, invitato da Giovanni per conoscere la bella famiglia, lui è convinto che in quella casa lui troverà la donna destinata a diventare sua moglie. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è Zeno Cosini, è un ricco commerciante triestino, in realtà è figlio di un ricco commerciante, quindi ricco ma non per soldi guadagnati da lui. È un uomo bizzarro, intelligente, è l'emblema dell'inettitudine, è un malato immaginario che soffre di dolori fisici autentici, secondo lui. Vive costantemente in bilico tra il fare e il non fare. I medici continuano a dirgli che è sano come un pesce, invece lui accusa sintomi di tutti i tipi e si crogiola un po' in delle elucubrazioni mentali complicate che alterna queste decisioni che lui non prenderà mai. Tra queste decisioni c'è lo smettere di fumare, cosa che lui non riuscirà mai a fare. Insomma, parlerei di accidia culturale. Vive tutta la sua vita evitando di scegliere, però facendo scegliere alla vita stessa, e che lui definirà la vera malattia, una malattia incurabile. Nel nostro racconto siamo arrivati al momento cruciale della sua vita, uno di quei passi che stanno per sancire una decisione importantissima, la più importante forse, la scelta della persona con cui condividere la propria esistenza. Anche in questo caso lui si dimostrerà preda degli eventi, sarà la vita a decidere al suo posto. E lui vuole sposarsi perché è rimasto solo, i suoi genitori e il fratello sono morti, ha conosciuto questo Giovanni Malfenti che è un ricco negoziante triestino che lo ha preso a ben volere, lo considera il figlio che non ha, perché questo Malfenti ha quattro figlie femmine, Adalberta, Augusta e Anna. Il padre le ha definite molto belle e Zeno si convince che sicuramente una di loro diventerà sua moglie. Ovviamente si immagina di scegliere la più bella di tutte. Quando arriva a casa Malfenti, però, c'è una sorpresa poco piacevole. Nel salotto elegante trovai la sola Augusta che leggeva accanto ad una finestra. Mi diede la mano. Sapeva il mio nome e mi disse che ero atteso perché il suo babbo aveva preavvisata la mia visita. Poi corse via a chiamare la madre. Ed ecco che delle quattro fanciulle dalla stessa iniziale, una ne moriva per quanto mi riguardava. Come avevano fatto a dirla bella? La prima cosa che di lei si osservava era lo strabismo tanto forte che, ripensandoci nel tempo, anche senza averla davanti, la personificava tutta. Aveva pochi capelli, biondi, ma di un colore fosco, privo di luce, e la figura intera, se non proprio disgraziata, era un po' troppo grossa per la sua età. Pensai, se le altre tre somigliano a questa... Quindi Augusta è brutta e Zeno la scarta subito. E poi c'è un'altra sorpresa, che Anna ha solo 8 anni, e quindi ne rimangono due. Però queste altre due si rivelano due bellezze. Alberta, che ha 17 anni, è bruna, con la pelle rosea, trasparente, molto graziosa. Però c'è Ada, che è quella che colpisce Zeno al cuore. È la figlia maggiore dei Malfenti, è una donna fatta, è bellissima, occhi seri, una figura di grande eleganza, energica, intelligente. Insomma, Zeno decide subito che Ada sarà sua moglie e lo stabilisce in maniera razionale, senza essersi innamorato di Ada, però riscontrando in lei tutte quelle caratteristiche che ne fanno la moglie ideale. E così vuole corteggiarla, inizia a frequentare con assiduità la casa dei Malfenti, ogni giorno porta alle sorelle, alla madre qualcosa, dei fiori, dei dolci, piccoli regali, insomma non perde occasione per parlare loro di sé. e si mette in mostra, racconta molte bugie, per carità, insomma, bugie benevole, esagerazioni del suo passato di studente, dei suoi viaggi, di esperienze lavorative che in realtà lui non ha mai fatto, e comincia a avere dei risultati differenti. Cioè la piccola Anna gli dà del pazzo, lo prende in giro. Alberta, ahimè, si annoia mortalmente. Ada è disturbata da queste bugie, perché è una ragazza per bene ma un po' poco fantasiosa. Insomma, l'unica che l'apprezza è proprio Augusta, la brutta, che è affascinata dal mondo interiore di Zeno. Augusta silenziosamente si è innamorata di lui. Così accade l'inevitabile. Zeno si dichiara a Ada, la chiede in moglie, e lei lo rifiuta categoricamente, anche perché lei è innamorata di un certo Guido Speyer, che è un altro amico del padre che frequenta la loro casa. E questo no spiazza Zeno, perché lui si era fatto tutto un film sulla vicenda, non si era minimamente preoccupato di capire se Ada lo amava o no, aveva dato per scontato tutto. Zeno però si vuole sposare a tutti i costi, vuole imparentarsi con Giovanni Malfenti. Nella mia vita corsi dietro a molte donne e molte di esse si lasciarono anche raggiungere, ma questa era la prima volta che volevo sposarmi e quindi mi trovavo in un paese del tutto sconosciuto. Subito dopo il rifiuto di Ada mi ritrovai seduto in salotto non so come accanto ad Alberta. Per avere la pace avrei dovuto fare in modo che quel salotto non mi fosse mai più interdetto. Guardai Alberta, somigliava ad Ada. In quel momento mi ricordai una raccomandazione di mio padre: scegli una donna giovane e ti sarà più facile di educarla a modo tuo. Il ricordo fu decisivo. Guardai Alberta e le dissi: avete mai pensato che siete nell'età di prender marito? E Zeno chiede a Alberta di sposarlo, ma anche lei rifiuta come la sorella. Lui è terrorizzato, teme di essere allontanato per sempre da casa Malfenti, da quel salotto nel quale lui si sentiva così a suo agio, e allora ripiega subito la sera stessa sulla sorella brutta. Sentite Augusta, volete che noi due ci sposiamo? Le chiede un po' rudemente. Augusta sa delle due proposte precedenti e appena accadute, però lei ama Zeno e quindi nonostante tutto accetta di sposarlo. Ecco, per dirvi a che punto arrivi l'inedia di Zeno Cosini, quando Augusta gli risponde: voi avete bisogno di una donna che viva per voi e vi assista, e io voglio essere quella donna. Insomma, che è una frase, e mi sembra un po' quando la Pina Fantozzi dice: Ugo, ti stimo molto. E lui davanti a questa frase si sente felice, non perché stia coronando il suo sogno d'amore, che non era quello, anzi Augusta è una scelta di triplo ripiego, ma perché non deve più risolvere niente, tutto si è risolto da solo. Evidentemente pensa non c'era possibilità di fare altrimenti. Così Ada sposa Guido Speyer e Zeno sposa Augusta, che peraltro si rivela anche una moglie migliore di quello che lui poteva aspettarsi. Il nostro matrimonio cominciò con una scoperta che mi stupì. Io amavo Augusta come lei amava me. Da prima diffidente godevo di una bella giornata, aspettandomi che la seguente fosse tutt'altra cosa, ma una seguiva somigliante all'altra, luminosa, tutta gentilezze di Augusta. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza, che se non era amore vi somigliava molto. Augusta era la personificazione della salute e in mano sua le cose che mi facevano disperare cambiavano natura. Se anche la terra girava, non occorreva mica avere il mal di mare. Lei girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto e avevano un'importanza enorme. L'anello di matrimonio, i vestiti, quello verde, quello nero, quello da passeggio che andava nell'armadio quando si rientrava e quello da sera che in nessun caso si sarebbe potuto indossare di giorno. Le ore dei pasti erano tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Ogni cosa stava sempre al suo posto. Beh, intanto alzi la mano chi nella vita, sto parlando agli adulti, chi nella vita almeno una volta non ha pensato se non era amore vi somigliava molto. È una frase geniale, perché qualche volta anche noi ci siamo rivolti a qualcosa che somigliava molto all'amore. Comunque il cambiamento è radicale. Augusta inquadra la vita di Zeno e gli dà una stabilità. Lui è preso dalle sue malattie immaginarie, dal suo vizio del fumo, dal quale vuole liberarsi senza riuscirci. E poi adesso ha paura di morire, allora si rivolge a Augusta per avere conforto, un po' come fanno i bambini che si fanno male, chiedono il bacio della mamma. E Augusta è un'ottima moglie, Zeno comunque la tradisce per un certo periodo, diventa l'amante di Carla Gerco, che è una bellissima ragazza che gli viene presentata da un amico dell'università. Questa Carla è una ragazza molto povera, studia canto, Zeno le finanzia gli studi, e lui naturalmente si sente in colpa nei confronti di Augusta perché la tradisce quando lei non se lo merita, ma ogni suo proposito di lasciare Carla si infrange contro la sua inedia, un po' come il problema del fumo. Insomma, alla fine sarà Carla a lasciare lui, e preferendogli il suo maestro di canto. La vita di Zeno tutto sommato procede tranquilla, tra malattie immaginarie, ultime sigarette. Il matrimonio è sereno, la coppia ha due figli, Antonio e Alfio, naturalmente due nomi con la A. Però a un certo punto arriva una proposta del cognato, quel Guido Speyer che aveva sposato la bella Ada. In realtà poteva essere un rivale in amore, perché si era aggiudicato, insomma, la preda più ambita di Casa Malfenti, però in realtà è diventato un suo caro amico. A un certo punto Guido fa a Zeno una proposta di lavoro, una proposta inaspettata ma molto gradita. Fu Guido che mi volle con lui nella sua nuova casa commerciale. Io morivo dalla voglia di farne parte, ma sono sicuro di non avergli mai lasciato indovinare tale mio desiderio. Si capisce che, nella mia inerzia, la proposta di quella attività in compagnia di un amico mi fosse gradita. Inoltre, io non avevo abbandonata l'idea di divenire un buon commerciante, e mi pareva più facile progredire insegnando a Guido piuttosto che facendomi insegnare dall'Olivi. Tanti a questo mondo apprendono soltanto ascoltando se stessi, e non sanno apprendere ascoltando gli altri. Però la conseguenza è inevitabile. Pensate che se è Zeno a dover insegnare l'attività commerciale a Guido, avete già capito come andrà a finire: un fallimento clamoroso. I due sono bravi a spendere soldi, molto più che a guadagnarli, e il loro ufficio diventa un piacevolissimo ritrovo, una farm dove si chiacchiera molto ma non si lavora. Le perdite economiche cominciano a farsi gravose, Guido entra in depressione, anche perché nel frattempo Ada, che aveva partorito due gemelli, si ammala del morbo di Basdow, un morbo che le conferisce un aspetto orribile, con gli occhi che sporgono dalle orbite, la sforma, le toglie tutta la bellezza, e Guido precipita nello sconforto. Sì, Zeno, mi ritrovo con una moglie cambiata, diversa. La vita, caro mio, è difficile e ingiusta. No, la vita non è né brutta né bella, è originale. Originale. Tu pensa di vedere la vita per la prima volta. Se dovessimo descriverla a uno che come noi non è abituato, rimarrebbe senza fiato di fronte a questa enorme costruzione priva di scopo, e direbbe: molto originale. Poi, valutando tutto, da quei corpi celesti messi lassù perché si vedano ma non si tocchino, al mistero che circonda la vita, domanderebbe: ma come riuscite a sopportarla? Questa era una bellissima trasposizione televisiva della vicenda di Zeno Cosini, una versione realizzata da Sandro Borchi nell'88. La voce l'avete riconosciuta, perché Zeno viene interpretato da un gigante, da Johnny Dorelli. Comunque, torniamo a noi, anzi a lui. Rovinato da queste scelte commerciali sbagliate, lui chiede i soldi alla moglie Ada perché deve coprire i suoi debiti, e lei rifiuta. E allora lui simula un suicidio per indurre la donna a aiutarlo. Allora lei acconsente, ma solo in parte. Peraltro Guido usa i soldi ottenuti per giocarli in borsa, dove ovviamente li perde e fa altri debiti. Allora ritenta ancora il suicidio, sperando di convincere tutti a aiutarlo, ma è sfortunato, perché il suicidio che lui voleva inscenare per finta in realtà riesce. Insomma, Guido muore, e per Zeno questo è un colpo durissimo. Ne ebbi uno sconvolgimento che quasi mi fece precipitare. Guido, da che lo conoscevo, era divenuto per me un personaggio di grande importanza. Egli aveva sbagliato, ma io subito vidi che, essendo morto, dei suoi errori non era rimasto niente. La morte l'aveva purificato. Nel frattempo scoppia la guerra, siamo nel 1915, e Zeno Cosini, incredibilmente, per la prima volta peraltro in vita sua, forse per un concatenarsi di cause esterne ovviamente, insomma, comincia a fare degli ottimi affari, acquista oro, merci che gli fruttano, che gli frutteranno negli anni, insomma si assicura ancora più serenità per questa sua famiglia, che in realtà alla fine possiamo considerare bella e felice, e tutte queste novità hanno un potere taumaturgico su Zeno, e insomma finalmente lui si sente guarito per la prima volta, capisce da dove avevano avuto origine i suoi malanni. Forse la malattia che mi procurava quei misteriosi dolori era semplicemente la vita. Non è una malattia da niente la vita, tant'è vero che è mortale. Così si chiude, diciamo quasi con un lieto fine, la vita di Zeno Cosini, e la vita che ha deciso per lui, perché alla fine la sua ignavia lo ha portato a lasciarsi travolgere dagli eventi. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala, insomma, cosa che Zeno non ha fatto, però ha saputo navigare sul vento che lo portava da una parte e dall'altra. E storie di chi è riuscito, ha tentato, ha avuto cadute, risalite, e storie che io racconto anche dietro vostra indicazione. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui volete puntare il mio microfono, scrivete al falcoelgabbiano@radio24.it, scrivete al nostro sito www.radio24.it, venite a cercarmi nei miei social, Facebook, Twitter, Instagram, nei social della trasmissione, insomma sapete dove sono. Ciao, a domani. Sulle ali di carta, i personaggi letterari del Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simone Capodanno, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.